Eccoci, eccoci. Bentornati e bentornate. Questo è l'inverno del nostro scontento. Mamma mia, ma poi. Per citare Shakespeare, così alle 6 di Ma pomeriggio. poi era tipo, quant'era? 6 mesi che non venivamo in radio. Tipo, e c'è la E neve. c'è la neve. Ed è maggio. È sempre inverno. No, e i volumi sono tutti un casino. Cioè, Vabbè, oh. te vai via un attimo e che boh, vabbè. E quindi io non so cosa sta. Magari state sentendo tutto uno schifo, non lo so. Vabbè. Fatecelo sapere, fatecelo Sì, sapere. infatti. Ditecelo se non. Mandateci un piccione. Non scriveteci a sto punto, diciamolo, Mari. Diciamolo Dai. dove scriverci. No, perché mi ci hanno attaccato un bel cartello sopra, così non leggo più nulla. Vabbè, ma Cioè. me lo ricordo. Posta Wombat, chiocciola in Siberia.net. Scriveteci se non si sente niente e noi cercheremo di leggerlo in diretta. Poi Sì, ho levato il cartello. Madonna. faremo anche un numero del Wombat, tipo Someone Call Please 911 Sì, Wombat. magari un numero finto. Certo. Lo mettiamo sui cessi in stazione, no? Chiama andrà a finire malissimo. 13. Sì. Bene, quindi oggi domenica 5 maggio, cari wombati e care wombate, Siamo Winter tornate. is coming, non per citare sempre cose da E nerd, però. anche la fuga del gatto is coming. Cat is coming, Come winter back. is coming, come back. Quindi grandi ritorni a Radio Wombat, reduci dalla festa incredibile, festa del 1º maggio di Radio Wombat, a cui avete partecipato numerosi e numerose. Grazie, grazie a tutti a quelli che sono venuti. Anche no, a quelli che non sono venuti, gli è pesato il culo, mi dispiace per voi, perché invece è stata una bellissima festa. Ma secondo me volevano venire tutti e poi hanno avuto magari degli incontrattempi e si sono dispiaciuti molto. Non lo so, io non sono così buona. No, dai. Quindi il poliziotto buono fallo te. Quindi per me chi non è venuto mi dispiace per Peste lui. lo colga. Pesta lo colga, vi siete persi dei super concerti, tra l'altro, comunque prima di tutti, scusate, non per offendere gli altri, però Malclango, vi amiamo, grazie, ciao. Sì, adesso poi qui Carlo Sdunga ci parli Eh te, sì, vabbè, perché. dai, Ivan, comunque, siamo in famiglia, Ivan, lo sai, ti vogliamo bene come se, cioè, così, comunque, a prescindere, però Malclango sono venuti apposta a Roma, quindi, cioè, insomma, erano in giro, vabbè, vi amo. Comunque, a parte il mio problema con i Malclango, andiamo avanti, perché oggi c'è una fantastica puntata, tutta Sì. dedicata a un strumento. Sì, perché finalmente siamo tornate dopo avervi lasciati da soli per un bel po' di tempo e probabilmente abbiamo reso le vostre domeniche vuote e inconsolabili, Veramente, io probabilmente siete immagino. andati, non so, errando come il buon vecchio. Mi Lui? sono persa un attimo, No, come non so, fai? non C'è so, non so un chi. vuoto, Non so. cosmico, volevo dire una cosa tipo fichissima. E va bene, niente, Lo so. la dico dopo, la dico dopo. Sì, comunque di gente Sì, che erra ce n'è che era, ce tanta. n'era, sì. E, siete andati errando inconsolabili senza di noi. Ma noi oggi ritorniamo con una degnissima puntata, anche se non proprio forse, ecco, stellare, diciamo, non di quelle super stellari, però secondo me è una puntata iper dignitosa su uno strumento, in particolare perché abbiamo pensato che non facciamo mai puntate dedicate a uno strumento specifico, facciamo Sì. sempre altri tipi di Ogni puntate. tanto l'abbiamo fatto quella sulla Facciamo. viola da Ah, è gamba, se non vero, ricordo scusate, male, e il forse vuoto. qualcos'altro, ma non mi ricordo bene. Comunque abbiamo fatto un po' un fioretto che lo faremo in Sicuro abbiamo parlato futuro. tanto della Celesta, Vabbè, che è il nostro quello. strumento preferito della Mari. Però quello l'abbiamo Lo buttato lì ritorna così. sempre, la Sì. Celesta. Però invece oggi parliamo dell'oboe, giusto? Sì, parliamo dell'oboe e beh, dai, l'oboe è bellissimo. Sì, l'oboe Cioè, spacca. allora, Scusate. se non avete ben presente lo strumento, è quella cosa che a un certo punto, se voi state ascoltando un pezzo di musica classica, entra questo strumento, voi si ferma tutto. Cioè, tutti fanno, oddio, che è Sì. successo? Perché c'ha un timbro e un calore che, vabbè, tipico anche, insomma, di altri strumenti, non è Ha l'unico. fiato, no, va bene, però Però, secondo molto me, particolare, sì. sì. Una qualcosa che secondo me accomuna i legni in realtà, però insomma ha un calore tipico e una malinconia insita che effettivamente, vabbè, molti compositori ci hanno giocato ovviamente, e però insomma ha risultato bene perché effettivamente quando l'ascolti, bam, entra questo strumento e un po'. si entra in un'altra dimensione. E da qui, grande Mari, perché hai, forse, non so se volontariamente o involontariamente, no, però hai fatto una citazione di il film Amadeus. A no, caso, ma figura. Perché Salieri, la famosa scena di Amadeus, di Milos Forman, il film su Mozart, no? Quando Salieri non l'ha mai visto, arriva al concerto dedicato all'arcivescovo di Salisburgo e Mozart è sotto il tavolo con la tipa e fa le peggio cose, l'orchestra comincia a suonare senza di lui ed entra l'oboe, perché lo faremo sentire tra l'altro tra poco, uno dei nostri ascolti, uno dei migliori usatori di oboe è ovviamente Mozart, e che aveva proprio questa capacità di usare lo strumento come veramente come qualcosa che lasciava il suono sospeso nel tempo e nello spazio. È un suono veramente astratto quello dell'oboe, molto, è un po' un parente, diciamo un po' un parente del craninetto, ma è meno squillante, quindi è meno incisivo, è più dolce, però lo un po', diciamo siamo dalle parti del clarinetto, però è più basso, quindi insomma, e c'è questa scena molto bella in cui Salieri sente questa nota dopo e dice la nota rimaneva sospesa nell'aria come se, no, venisse da non si sa dove, andasse non si sa dove, e sembrava venuta dal paradiso, sembrava una nota, no, come quando le nuvole si aprono e arriva la luce del sole. E così questa è la prima volta in cui Salieri sente effettivamente dal vivo la musica di questo genio che lui ha sempre sentito decantare fin da piccolo e ha sempre invidiato e amato. E quindi l'oboe forse è veramente uno degli strumenti che più rappresenta la capacità della musica classica di astrarre veramente, no? di elevare, di trascendere e di diventare qualcosa di completamente diverso. Sì. Mi sono persa. Bene, aiuto Mari. No. Invece non ti sei persa. Secondo me c'entrava tutto e parliamo un po' dell'oboe però. Riprendiamo le fila. Il termine italiano oboe deriva dal francese hautbois, ovvero legno alto, innanzitutto, giusto per darvi delle informazioni inutili che così non ricorderete. È uno strumento musicale aerofono, affiato, ad ancia doppia, che, come si diceva prima, appartiene al gruppo orchestrale dei legni. È di forma conica, generalmente fatto di legno d'ebano o di palissandro. Beh, come immaginerete, insomma, il materiale con cui viene costruito uno strumento di questo tipo non è per niente banale. Un po' tutti sanno che il violino, insomma, in base a che il legno con cui viene costruito ha un suono o un altro, ha una pregevolezza o un'altra. Ecco, per l'oboe ovviamente è uguale. Le chiavi sono in metallo, generalmente alpacca argentata o dorata. Io non so neanche che è un uovo di pacca, l'alpacca. Ma non credo siano fatti di alpaca. Sarà una copertura, una verniciatura, sì, no? Una metallica. Sì, non credo. L'oboe è comunque, per farvela proprio così in soldoni, è quello un po' dritto e lungo di legno, no? Che va un po', che scende un po' in basso, che ha questi tasti, appunto, è un po' più cicciotto del clarinetto e poi fa una curva in fondo, fa una piccola, ecco, fatto così. Sì, ce l'avete presente. Ecco, no, senti che ora ho messo, ho pigiato un tastino e si tastino sente tutto magico. Diverso, vero? A me non mi si sente più, magari. No, ti okay. Si sente uguale. Bene. Ma senti, ma perché devono aver fatto una danza sul mixer, una festa sopra il mixer? Probabile, i topi. Vabbè, lasciamo perdere. E quindi, dicevamo, le chiavi sono... No, scusate, si parlava delle ance, si fa uso di questa ancia doppia, che è fatta generalmente di una canna palustre, che insomma generalmente viene costruita e rifinita proprio dallo stesso oboista. Si deve adattare alla bocca, quindi ognuno ha la sua ancia. E secondo me è una cosa molto bella, a me piace un sacco questo fatto che lo strumento ti appartiene un po' di più rispetto agli altri, perché comunque te lo costruisci, un pezzo almeno te lo costruisci da solo ed è proprio solo tuo. Questa cosa mi ha divertito molto. Viene allora, come si forma il suono? Il suono fondamentalmente dell'oboe viene prodotto dalla vibrazione dell'ancia che viene formata dalle due palette. Quindi le due palette vibrano, producono quindi delle al passaggio delle frequenze, no? le due, cioè, un po', la vibrazione, un po' come succede nelle corde vocali, sì, o in tanti altri strumenti, insomma, comunque di fatto viene prodotta vengono prodotte delle frequenze che vengono poi incanalate dentro questo strumento, nel questo corpo, un butone, e quindi da lì poi si forma tutto il timbro e si forma il vario suono dell'oboe. Le chiavi invece, le chiavi sono delle componenti in metallo, hanno tre possibili funzioni, tutte e tre, in primis vengono utilizzate per determinare l'altezza del suono, quindi la nota, insomma, e poi altre chiavi invece vengono utilizzate per facilitare i trilli e i mordenti. E le rimanenti chiavi, che vengono dette portavoci, vengono utilizzate per eseguire le note più acute. Poi dopo ci torneremo su questo, perché insomma da qui ne scaturisce una difficoltà non proprio banale nell'eseguire alcune note, soprattutto quelle quindi acute. In realtà, rispetto al clarinetto, che, no, in cui si pisa i tasti fondamentalmente, o la tromba in cui si pisa i tasti, l'oboe invece utilizza molto di più l'entrata dell'aria della voce, e le chiavi servono solo per modulare, fondamentalmente, no? Per sì, modulare, quindi è ancora più complicato, se vuoi, insomma. Sì, cioè, ma infatti si pisa comunque, però è un po' diverso rispetto appunto al clarinetto, alla tromba, no? In cui c'è lo schiacciamento dei tasti, no? Eh sì, no, deve essere un casino, ma io non lo so, ma insomma la nostra amata protagonista, la nostra serie preferita è un oboist. Ovviamente. Mozart in the Jungle, la nostra serie, il nostro guilty pleasure, la protagonista è un oboista, se non sbaglio, lei, no? Sì. E quindi infatti, tadan, Mozart, per l'appunto, l'abbiamo citato, concerto per oboe in do maggiore, numero di catalogo K314. Noi ci ascoltiamo il secondo movimento, perché purtroppo non possiamo ascoltarci tutto l'intero concerto, che non abbiamo il tempo, anche perché gli ascolti musicali di oggi sono tanti, insomma. E abbiamo poco tempo, quindi vi facciamo ascoltare soltanto il secondo movimento, appunto, adagio non troppo, e basta, sentitevelo. Eccoci qua. Questo era un estratto dal concerto per oboe Do maggiore K271 di Mozart. Si chiama Concerto per oboe Ferlendis in realtà. Questo era l'adagio e l'organico è oboe solista, due flauti, due corni e archi. Allora, questo è uno dei più noti concerti di Mozart, perché appunto insomma, è stato tanto riproposto, comunque è molto ispirato, è uno dei suoi cavalli di battaglia, ma lui stesso addirittura lo diceva, si sa appunto che Mozart scrisse un concerto per oboe e orchestra per l'oboista Giuseppe Ferlendis, che era appunto un virtuoso dell'epoca. Che faceva parte dell'orchestra di Salisburgo, diciamo nel 1777. Dopodiché, questo musicista andò, con Haydn a Londra e morì probabilmente a Lisbona nel 1802. Si ritiene, leggevo, che Mozart abbia composto il concerto per oboe e orchestra tra l'aprile, e il settembre del 1777. Diciamo che, lui appunto spesso ha scritto al padre negli anni dicendogli ho presentato all'oboista Friedrich Ramm, che era un altro, sempre un esecutore, il mio concerto per oboe e orchestra. Quindi insomma si ha proprio delle tracce del lavoro che Mozart ha portato a lungo avanti, cioè è stato diciamo, un work in progress per lui questo, perché a seconda un po' del musicista, del solista che incontrava, cambiava, un po' modificava la scrittura del suo concerto. Non è inusuale, nel senso che non è tanto, non è una pratica tanto ripetuta per Mozart, perché di solito scriveva di getto, scriveva e via. Però, siccome appunto proprio perché l'oboe è uno strumento che più di altri cambia a seconda dell'esecutore, proprio per quello che dicevamo, per la sua natura proprio stessa. Cambia molto da il suono, il timbro da esecutore a esecutore, tutti gli strumenti ovviamente funzionano così, però l'oboe in particolare, per cui probabilmente Mozart, a seconda un po', no, del musicista che incontrava, del solista che incontrava, cambiava poi un po', modificava la scrittura di questo bellissimo concerto, di cui noi abbiamo ascoltato appunto la seconda parte, che è l'adagio in re minore. Quindi, andando avanti, proseguendo un po' per spiegarvi lo strumento. Io nel frattempo sono riuscita forse a rimettere a Sì, posto i ormai ho volumi. aiutato con le 16 mani, Sì, lo ero sotto il tavolo. scotch, il nastro da pacchi e riuscita a sistemare un po' Spero. le frequenze, quindi si dovrebbe sentire un po' meglio. La nascita dell'oboe risale in realtà all'antichità, cioè è uno strumento abbastanza antico, ne è nota la presenza addirittura nell'antico Egitto, in Cina, Arabia e Grecia, sotto forma di strumenti, chiaramente non era poi l'oboe come lo conosciamo oggi, sotto forma di altri strumenti, ciaramelle e aulos, che possiamo dire certamente progenitori dell'oboe. Ecco. L'aulos, tra l'altro, è quello che si vede sempre nei dipinti, sia antichi Quella che specie contemporanei, di flauto lungo in doppio, doppio. sì, Esatto. sia anche nei dipinti invece della cosiddetta Arcadia, i dipinti, Pastorali, sì, un sì, po' poi, quindi seicenteschi, esatto, rococò, diciamo. quando poi avevano un po' questa immagine ovviamente abbastanza. Così, probabilmente stereotipata e probabilmente non era fatto così l'aulos, insomma, comunque boh, ce lo buttavano Vabbè, un po' però lì. diciamo quello che Però si rifacevano. l'immaginario pittorico ci riporta sempre un po'. Tra l'altro mi è venuto in mente mentre sentivamo che l'oboe è anche lo strumento che viene sempre usato per rappresentare le atmosfere un po' arabeggianti, non a caso, un po' mistiche, no? Un po' così, un po' voluttuose, un po'. No? Viene sempre usato il suono dell'oboe è molto proprio per questa dolcezza, per questa. È molto tondo il suono, no? Sì. Rispetto al clarinetto, che invece è più secco, più alto, l'oboe è molto più tondo, sembra più un suono d'acqua. Non è un caso, poi vabbè, ne parleremo dopo. Non voglio Sì, partire su sì, sì, sì. Wagner, però lasciamo perdere. Sì. Andiamo avanti. In realtà, una breve inciso: volevo salutare una nostra amica che ci sta ascoltando. Ciao Giulia, che ci ascolta da Roma, e quindi così le volevo fare un saluto. Grazie. Allora, va bene, quindi in realtà appunto arriva Lobo da molto lontano, dall'Aulos, come dicevamo, nell'antica Grecia, la Ciaramella, hai citato già prima, che era probabilmente l'antenato proprio diretto, che poi era il più piccolo della famiglia delle Bombarde, bello sto nome, molto diffusa nel Medioevo. Che poi fondamentalmente aveva come caratteristica quella di avere un suono molto aspro, a differenza invece dell'oboe, direi, adatto molto a suonare all'aperto e quindi chiaramente insomma, per farsi sentire bene anche senza amplificazione, ovviamente. Poi c'è, questo era in realtà nell'antichità a noi più nota, a noi occidentali più nota, ma in realtà se andiamo un po' più là c'era anche in India. C'era uno strumento che si chiamava Oton, che era una versione molto primitiva, diciamo molto semplice dell'oboe. Aveva però, appunto, come l'oboe un'ancia doppia ed emetteva quarti di tono. E quindi poi c'erano altri, i musulmani ne avevano più d'uno di strumenti simili all'oboe. C'era il Nagasaran, boh, non so come si dice, il Sumangye. Che uno era più piccolo e acuto, l'altro più grande e grave, insomma, ce n'erano assai, direi. Sì, chiaramente il suono dell'oboe è più quello che tutti riconoscono, appunto, quando sentite. È propriamente settecentesco, diciamo, l'oboe ritorna proprio in auge, poi attraversa tanti cambiamenti, come quasi tutti gli strumenti musicali classici. Però, diciamo, forse il concerto di Mozart che avete sentito è un po' emblematico, no? Il suono dell'oboe è. No? Il Settecento è un po' il momento in cui l'oboe riappare, no? Si consolida il suo ruolo nell'orchestra e poi traslerà un po' senza soluzione di continuità nell'Ottocento, no? Debussy è molto usato dai, no? Così proprio per le sue capacità di rendere l'atmosfera, Ravel, piuttosto che insomma, i russi. Ecco, insomma, l'oboe attraversa fasi alterne no? Di gloria nella storia, forse ne sparisce un po' in certi momenti, però si riafferma molto nell'orchestra, soprattutto sette-ottocentesca, diciamo. Ritorna, ritorna. Ci ascoltiamo subito un'altra cosetta, cosetta insomma, Così. una cosettina buttata Buttata lì. lì, un Vivaldi. E beh, certo. Vivaldi, un altro concerto per oboe in Do maggiore, RV 450. Anche qui vi facciamo sentire solo un movimento, il primo però, l'allegro molto. E abbiamo tanta musica, quindi io direi di correre un È po', che tardi, dici? sì, Bianconiglio. No, questo era quello di prima, certo, perché non è che vi posso far risentire di nuovo da capo Mozart. Oggi non ce Cioè, la possiamo si fare. potrebbe fare, È ma stata dura questo weekend, cioè Madonna, veramente voi non potete non capire. avete capito. Va bene, va bene. Ah, ce la farò, eccolo, eccolo. Vabbè, vabbè, niente, non... Oggi non se ne esce. No, volumi così, vabbè, ve li pigliate, dai, come sono, ragazzi. È così. Però, in compenso avete intuito probabilmente della musica bella che potete andarvi a ricercare su YouTube. Per sentirla ancora peggio, probabilmente. Sì, probabilmente sì, vabbè, ma infatti, ma che ce frega. I CD, ricercatevi CD. Sì, infatti, i vinili anche, ancora insomma, meglio. Tanto lo scoppiettio c'è pure qui, quindi insomma. Bene, Vivaldi. Questo, Vivaldi, l'abbiamo detto, sì. E continuiamo perché arriviamo ora a Bach. Perché pure ragazzi, lì, Bach pure lui Lobo, ne sapeva. Che gli vuoi dire, quello. Ma dicendo, ritornando appunto all'oboe, il nome attuale dell'oboe, che come dicevamo si rifà alla Francia, risale al tardo XVII secolo. I francesi appunto chiamavano questo strumento hautbois, da cui poi deriva il termine italiano sempre settecentesco, oboe e poi oboe, ovvero legno alto. Proprio per legno alto veniva chiamato così per il volume alto che questo strumento era capace di produrre. Perché il timbro è dolce, però è alto, cioè sì. È pastoso, però è alto. È penetrante, cioè, proprio, è proprio, sì. Sì, e quindi vabbè, poi in realtà il nome è stato ovviamente esportato in vari paesi, ognuno l'ha un po' cambiato, e fino a poi diventare ad esempio Outboy in inglese. Sembra un po' Hellboy, però vabbè. Sì, infatti è strano. Outboy, è un po' tipo New Wave. Sì. Ok, la smetto, scusate. No, vabbè. E quindi niente, l'obo è poi insomma fondamentalmente, come abbiamo già detto un po' prima, è in realtà l'erede di una lunga tradizione di strumenti ad ancia doppia che insomma venivano usati nei secoli. E, molto importante appunto, come abbiamo detto, soprattutto nell'orchestra barocca, l'oboe, anche perché l'oboe dava il là agli altri strumenti dell'orchestra. Perché non è che questo lo rendeva importante, era il contrario, cioè il fatto che venisse usato l'oboe per dare il là a tutta l'orchestra fa capire quanto questo strumento venisse considerato importante, appunto. Spesso quindi era lo strumento su cui tutti gli altri si accordavano. Sì, quindi evidentemente insomma era abbastanza fondamentale, anche perché spesso l'oboe in realtà sostituiva il violino nelle orchestre. Perché è un solo, cioè uno strumento che viene usato a solo, come quasi tutti gli strumenti possono essere usati a solo, però l'oboe ha questa voce particolare e quindi spesso viene usato, no? Mozart lo usa quasi sempre così, cioè lo stacca dall'orchestra, gli fa fare un pezzo solo e l'oboe è particolarmente versato a questo, viene usato quasi sempre orchestra e oboe, insomma. E poi sta anche dentro l'organico, ovviamente, però è un strumento solista. Sì, tra l'altro l'oboe è probabilmente all'interno dell'orchestra lo strumento più difficile da intonare, quindi insomma... Fanno una fatica bestia gli oboisti, sì. Ragazzi, cioè ci vuole veramente, devi essere veramente bravo, vabbè, dice, devi essere bravo a suonare tutto, sì, però credo che veramente sia uno strumento... difficile, cioè veramente l'esecuzione, perché è tutto modulato dal fiato, quindi sì. È veramente difficile. Ci ascoltiamo direttamente questo oratorio di Pasqua di Bach. Arriviamo di sì. Un po' in ritardo, vabbè, con la Pasqua, sì. Ma insomma neanche di troppo, ma cioè, no, vabbè, dai. Poi siamo in inverno, ma ormai c'è stata anche nevica, quindi va bene. Sì, la Pasqua norvegese, quindi, sì, esatto. Pasqua è... Johann Sebastian Bach, oratorio di Pasqua, BWV 249. Ci ascoltiamo l'adagio, anche qui circa 3 minuti, e poi ritorniamo subito qui alla Fuga del Gatto. Ok, abbiamo appena deciso che questa puntata si trasformerà in due. Sì, perché c'è troppa roba bella. Troppa roba. Da farvi sentire, è un peccato non mandarla, tagliarla, e quindi abbiamo deciso che faremo. Tanto abbiamo tante altre informazioni da darvi. Sì, è tanta bellissima musica. In strumento che, tra l'altro, per gli appassionati di strumenti musicali in generale, viaggiatori, se vi trovate a essere a Parigi per qualunque motivo, vi invito a andare alla Villette, che è la zona dove c'è il Museo della Scienza e della Tecnica, il parco, l'auditorium, perché c'è il Museo degli Strumenti Musicali, forse uno dei più belli del mondo. È veramente ricchissimo e c'è con l'audioguida, proprio spiegato, no? con il codice davanti a ogni teca, ogni strumento, diviso tra l'altro per epoche, proprio con l'evoluzione di ogni strumento. È fatto benissimo, il Museo degli Strumenti Musicali, e con l'audioguida cliccate appunto sul numero della teca e vi fa sentire il suono dello strumento e vi racconta appunto la storia. Quindi, e c'è chiaramente tutta la famiglia, insomma, tutta l'evoluzione dell'oboe, ovviamente lì c'è, ma di tutti gli strumenti in realtà, chitarre, violini, pianoforti, strumenti ad arco, insomma, è veramente un museo incredibile. Io ci sono stata 750 volte, ovviamente dentro, giornate dentro, perché poi è molto grande, però ve lo consiglio, insomma. Se... Nel nostro piccolo, invece, io consiglio il museo all'Accademia, qui a Firenze, che comunque... fra l'altro accanto al conservatorio, che in realtà anche quello è piccolino ma è molto bello, esaustivo. Ci sono alcune cose molto belle, quindi un po' più vicino. Sì, dovete sfidare la fila dei 1800 turisti maledetti, perché è lo stesso dell'Accademia d'Arte, quindi è lo stesso. Però in realtà, se vi interessa, c'è un numero, si può prenotare, c'è un numero verde, tipo si trova su internet, sul sito del comune, che fa vi danno un orario e voi andate a quell'orario e vi fanno entrare. Bene. Sapevatelo. Sulla fuga del gatto. Allora, quindi abbiamo deciso che il fortunato che concluderà questa puntata di oggi e non andrà nella seconda parte è Telemann. Giusto? Vecchio Telemann, ragazzi, l'abbiamo già sentito, l'abbiamo già incontrato, non troppo, dovremmo fare un corso su Telemann, perché è veramente era un grandissimo compositore e tra l'altro veramente unico, cioè, nel suo genere, veramente belle le sue cose. E compositore, organista tedesco, insomma, ecco, molto un geniaccio fondamentalmente. Sì, e che con l'oboe, insomma, ha saputo costruire delle melodie bellissime. Ora lo sentiremo, insomma. Si parla sempre della fine del Settecento, lui morì nel 1767, quindi insomma si sta parlando della seconda metà del Settecento, ecco, per capire da che parte siamo girati. Allora, tornando all'oboe, eravamo un po' sulla storia dell'oboe, eravamo più che altro all'antichità. Però eravamo arrivati in realtà, no, eravamo arrivati già al barocco. Eravamo arrivati al barocco, dicendo appunto che è nel barocco che poi l'oboe prende la sua importanza e diventa uno strumento solista fondamentale, ecco, e sostituisce il violino spesso. Però in realtà ancora non era proprio l'oboe come siamo abituati a vederlo noi, perché è solo nel secolo successivo che l'oboe assume una forma proprio uguale o simile perlomeno a quella che vediamo adesso, il che ovviamente per il suono, cioè ovviamente tutte le varie modifiche fisiche all'oboe vengono fatte per trovare in qualche maniera quel suono che piaceva un po' di più e che adesso è quello che conosciamo. Piano piano appunto questo strumento viene smussato, gli viene modificata la forma in modo da fargli acquisire un timbro più morbido e una dinamica maggiore, perché prima chiaramente lo sentivamo sia l'aulos, ma insomma anche dopo la ciaramella, tutte queste cose qui avevano un timbro e una dinamica piuttosto statici, e attraverso questa forma che piano piano viene trovata nei secoli, direi, la dinamica si amplia e si amplia quindi anche un po' le possibilità, chiaramente, che questo strumento offre. L'oboe di cui parlavamo del periodo barocco, quindi il periodo precedente, insomma, è fondamentalmente frutto dell'inventiva dei fratelli Hauteterre. Quindi facciamo dei nomi a questo punto. Sì, Jacques Hotteterre, che scrisse un importante trattato in cui presentava vari strumenti, tra cui il flauto traverso, il flauto dolce e questo nuovo oboe un po' perfezionato che inizia a essere simile a quello che conosciamo noi adesso. E, insomma, loro fondamentalmente è un po' a loro, a questi due fratelli, che si deve il suono di adesso dell'oboe. È uno strumento molto più duttile, con molte più gamme di suoni, come dicevamo, e capace di mettere un po' tutte le note della scala cromatica con un'omogeneità abbastanza buona, che ovviamente prima non si poteva fare con gli strumenti invece medievali e dei secoli precedenti. Viene costruito in tre parti, che poi è come adesso si presenta l'oboe. Si monta, quindi. Viene montato. È smontato in tre pezzi, nella custodia, proprio si vede il musicista per la custodia e lo monta. Sì, poi c'è una sezione interna che si evolve molto, che adesso chiaramente, cioè, da fuori non si vede, ma insomma è dentro ovviamente che il suono compie tutte dei viaggi, sì, ha un percorso, tutto un percorso attraverso questo legno che fa sì che poi il suono esca modulato e in una particolare maniera. E mentre prima c'era un profilo scalettato, che era frutto dei primi tentativi di Hotteterre, di questi due fratelli francesi, dopo si parla di un profilo composito, che è una sorta di labirinto di fatto, in cui il suono viene un po' incatenato e viene veicolato. E, di fatto, insomma, poi questa è la forma che sopravvive fino ad adesso, perché è quella che piace di più e che rimane quindi inalterata. Quindi dalla metà dell'Ottocento poi vengono fatte ulteriori innovazioni, non tanto a questa parte credo, ma ad altre parti all'esterno, forse, sì, diciamo. Penso di sì. E che insomma poi alla fine tutto questo gran lavorio sull'oboe dà vita poi allo strumento che conosciamo adesso. Non è raro che gli strumenti cambino nel corso del tempo, ovviamente, anzi siamo noi che siamo abituati a vedere gli strumenti che vediamo noi, il 99% delle volte, sono quelli che hanno raggiunto la loro forma fondamentalmente nell'Ottocento, diciamo stabilizzata, fine Settecento-Ottocento, però hanno subito un'evoluzione incredibile e questo i musei aiutano, perché ti fanno proprio vedere fisicamente, vedi vari passaggi di tutti quegli strumenti che invece sei abituato a vedere a prodotto finito, fondamentalmente quando ti vai a vedere un'orchestra, sì, vedi l'orchestra di strumenti che hanno attraversato secoli per arrivare a quella forma lì, e quindi anche questa cosa interessante della musica classica, perché non riesci a vedere un po', come dire, la storia fondamentalmente. Ma tra l'altro molto spesso chi apportava questi cambiamenti, chi sperimentava, erano gli stessi compositori, gli stessi strumentisti. Certo, sì, anche perché erano loro che usavano poi lo strumento. Se pensate che noi, no, immaginiamo il suono del pianoforte così come è stabile, in realtà un pianoforte è uno strumento modernissimo come lo conosciamo noi, cioè l'Ottocento, ma prima ha attraversato tutta una serie di fasi ancora che non erano nemmeno pianoforte, erano addirittura altri tipi di strumenti, quindi insomma. Sì, ma poi era buffo che appunto un compositore, un musicista aveva varie competenze, non soltanto quelle, non si metteva soltanto a scrivere, a comporre musica o a leggerla, ma sapeva fare il meccanico in qualche maniera, sapeva fare l'artigiano. Poi vabbè, c'è tutta la scuola degli otai, quindi veramente, sì, no? Poi cioè, gli otai, sì, le costruivano, però in realtà anche anche il musicista poi via via apportava delle modifiche e poi lo strumento veniva copiato da quello dopo con quelle modifiche lì e costruito dal liutaio con quelle modifiche lì, e quindi prendeva poi quella forma lì ufficialmente, quindi è interessante poi il passaggio. Che no? Bei tempi, non come adesso che ti danno una cosa, tieni, Ale. No, poi tra l'altro abbiamo citato spesso Bach, l'abbiamo già detta questa cosa, Bach era per esempio un ottimo riparatore e costruttore di organi, e gli organi immaginateveli come qualcosa di enorme, immenso, una specie di stanza dove lui entrava, si infilava tutto, poi ne usciva nella botolina, sì, ne usciva coperto di morchia, non la morchia non credo, ma insomma l'equivalente d'olio, e perché insomma non era semplice trovare, poi l'organo era un qualcosa che in qualunque chiesa c'era, ma non è che tutti sapevano riparare poi un organo, è stato complicatissimo perché l'organo è uno strumento a tasti, ma in realtà è uno strumento a fiato, a vento, no? Perché le canne dell'organo, quindi c'è, insomma, vabbè, poi faremo la puntata sull'organo, ovviamente. È vero, sì, sì, sì, l'ho fatta. Va bene, comunque rileggevo adesso, giusto per chiudere, che effettivamente si diceva prima gli ultimi cambiamenti vennero apportati nell'Ottocento e sì, erano un po' la parte esterna, in particolare le chiavi. Fondamentalmente sì, quello che cambia rispetto alla versione dei fratelli francesi di Etterre sono il numero, la quantità di chiavi che vengono apportate e che quindi che vengono chiamate portavoci e che permettono di base di all'oboista di suonare le note alte con un po' più di agilità, perché che è un po' la bestia nera dell'oboista, se ho ben capito, quella di appunto intonare e suonare facilmente le note alte. E quindi piano piano, insomma, siamo arrivati a renderlo un pochino più duttile questo strumento, più malleabile e più facilmente suonabile. Ecco. Sì, allora, per fare come al solito la frecciata cinematografica, un film la cui colonna sonora contiene dei bellissimi pezzi di oboe, perché viene proprio suonato, se non sbaglio, dai protagonisti, perché I Duellanti di Ridley Scott, un bellissimo film che è ambientato nel nel periodo napoleonico, e gli stupendi Kit Carradine ed Hervé Keitel, appunto i due duellanti, che sul testo del libro di Conrad, e la stupenda colonna musica firmata da Howard Blake ha proprio i pezzi di oboe, perché mi sembra il personaggio di Hervé Keitel a un certo punto, lui non è un musicista vero, però insomma, finge, suona, diciamo, no? Il livello interno suona l'oboe in scena, e poi l'oboe, la colonna musica col pezzo di oboe prosegue. È stradiegetica, entra. E per esempio quello è un film da vedere per chi non l'avesse visto, ed è un film ambientato appunto in epoca napoleonica, quindi appunto fino alla prima metà dell'Ottocento, 1814, insomma, però sì, poco prima, e si parla appunto di questo periodo qui, e l'oboe era appunto a dimostrazione di questo uno strumento centrale. Eh sì, infatti. No, io questo film devo dire non l'ho assolutamente visto. Lo vedrò. Comunque a frequentarti, cioè mi tocca poi passare le giornate a vedere i film, cosa che peraltro non faccio, non riesco a fare. Quindi sono sempre. Ma io te li riassumo. Sono sempre indietro. Ecco. Sì. Vabbè, va bene. Quindi vi lasciamo però invece con Telemann. Ve l'abbiamo citato prima. Un altro concerto per oboe, anche questo dedicato appunto appositamente all'oboe, scritto proprio per questo strumento, concerto per oboe in mi minore, TWW 5-1-1, questa volta ve lo facciamo ascoltare tutti e quattro i movimenti, l'andante allegro molto, largo e allegro, ne vale la pena, e quindi ve lo facciamo sentire integrale, dura circa 12 minuti. E vi salutiamo adesso. Sì, con questo vi lasciamo, ma vi promettiamo una seconda parte dedicata all'oboe, c'è cioè almeno Handel, Schumann, ce n'è tanti che hanno fatto parlare l'oboe. E quindi appunto per le altre così, curiosità, informazioni su questo strumento, vi rimandiamo alla prossima puntata sull'obo, e adesso vi salutiamo e vi ringraziamo per l'ascolto. E vi diamo appuntamento forza domenica prossima, anche se domenica prossima vi ricordiamo esserci anche... No, non è già domenica prossima, sto confondendo. È quella dopo. Il Festival della Letteratura Sociale. Sì, sarà il Festival della Letteratura Sociale allo Spazio Liberato della Polveriera, Spazio Comune. Dove probabilmente noi sacrificheremo il nostro spazio per dare spazio alla diretta del festival, e quindi... Però prima, se è domenica prossima, è vero, ce la possiamo... Mi confondevo, questo maggio è troppo piano. Questo maggio ha bisogno del tuo coraggio, quindi accollatela e andiamo avanti. E a domenica prossima, quindi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Thank you. Thank you.